San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, dice che l'incestuoso ha da essere cacciato a pedate dalla comunità dei cristiani. Nella seconda lettera ai Corinzi, contrordine compagni, dice che per non darla vinta a Satana è meglio riprendersi l'incestuoso e perdonarlo, almeno fin quando si è in minoranza, mai, mai diminuire il numero degli iscritti. Il concetto di indulgenza, tanto caro al cristianesimo, nasce da lì. Come istituzione sociale tuttavia già in auge da un pezzo. Presso gli ebrei ogni 50 anni vigeva la consuetudine di liberare gli schiavi, restituire le eredità confiscate ai proprietari di un tempo e lasciar riposare la terra, assecondando un principio già esplicitato nel Levitico che impegnava a lasciar trascorrere 7 anni e quindi nell'anno successivo coniugare alla meno peggio ecologia sociale ed eugenetica dell'agricoltura, chiamiamola così. L'indulgenza della dottrina cattolica è più o meno come il condono per l'IRPEF non pagato e per le opere murarie non denunciate al catasto. Infatti l'indulgenza è la remissione davanti a un Dio ragioniere e creditore solerte delle pene temporali dovute ai peccati commessi, remissione che può essere concessa ai vivi tanto quanto ai morti, purché qualche vivo si dia da fare in nome e per conto loro. Fra lo Stato e la Chiesa è ormai una bella gara per stabilire chi dei due ha il diritto di martirizzare meglio e più a lungo l'essere umano. Cambiano i tempi, comunque cambiano i sacrifici. Il Concilio di Clermont, per esempio, nel 1095 ha concesso indulgenza plenaria per tutte le specie di delitti a tutti coloro che si sono arruolati per andare in Terra Santa a conquistare il Santo Sepolcro. Il fatto che nel bando si specificasse che il perdono concerneva tutte le specie di delitti è da mettere certamente in relazione ai nuovi delitti di cui c'era necessità e di cui si richiedeva la capacità di esecuzione. Inutile alle crociate portarsi dietro inetti o mammolette, men che mai pentiti. La Chiesa Celtica d'Irlanda, per fare un altro esempio, istituì la cosiddetta penitenza tariffaria, in merito alla quale ogni penitenza poteva venire adeguatamente commutata. E durante lo scisma, al tempo di Urbano VI, i papi concorrenti fecero a gara per concedere indulgenze l'un contro l'altro, secondo il principio che avrebbe avuto ragione chi ne dava via di più. Alessandro VI distribuì indulgenze al suo esercito per riconquistare la Romagna, Leone X, questo diciamolo sottovoce in questi giorni di tensioni diplomatiche, ne concesse a Iosa, Leone X, a chiunque gli riuscisse di ammazzare un po' di turchi. Non stupisce allora che Lutero e Calvino fecero leva su quel minimo di indignazione popolare suscitabile per promuovere lo scisma protestante contro la Chiesa romana. Sarà anche a causa del loro discreto successo che oggi il costo umano e sociale dell'indulgenza è fortemente diminuito. Il Papa non chiede più di arruolarsi e combattere, ma si accontenta di quei sacrifici mediocri e innocui che più o meno non disturbano nessuno: visitare i malati e i carcerati, che non vanno né guariti né tantomeno liberati, fare un'offerta per i poveri, che rimangono poveri, e astenersi per un giorno dagli alcolici e dalle sigarette, che dopo un giorno di pausa, come noto, ci se li gode di più. L'avvedutezza della Chiesa Cattolica consiste nel non inimicarsi nessuno. Perfino le multinazionali del tabacco possono stare tranquille e continuare, diciamo così, ad avvicinare a Dio i loro fedeli. Giubileo viene da una parola ebraica che stava per capro espiatorio. Sembra che come voce dotta la introdusse San Gerolamo. Il primo giubileo fu decretato da Bonifacio VIII nel 1300 e prevedeva indulgenze per i pellegrini che in Roma visitassero le 4 basiliche San Pietro, San Giovanni, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura. Negli anni, così come è diminuita la distanza temporale fra i giubilei, perché prima ogni 100 anni, poi ogni 50, poi ogni 25, è stato limato anche il chilometraggio da percorrere. Prima si è scesi a 2 basiliche e oggi, per il grande giubileo del 2000, ci si accontenterà di una. Giunge dunque tardivamente la responsabile, ugualmente lodevole iniziativa dell'Associazione Italiana Podologi, che nei giorni scorsi ha proposto al comitato organizzatore del Giubileo di finanziare l'istituzione di provvidenziali ambulatori mobili cui i pellegrini incalliti, in entrambi i sensi, potrebbero rivolgersi per le prime cure del caso. Si sa che il Giubileo dispensa balsamo per l'anima. Non sempre si tiene presente che per non farne un capro espiatorio di questa anima risanata occorre un balsamo anche per i piedi.